Ho lanciato un sasso nello stagno, ha fatto cerchi tutto in tondo. Alcuni si sono persi a largo, ma altri sono andati a fondo. Si è calmato tutto in un secondo, ho visto chiaro, finalmente. Fa paura, ma è importante, lampante. È una vita che provo a cambiare. Sbaglio e faccio finta di imparare. Solo sai che adesso il lago è fermo, tanto che ci si può specchiare. Sono io. Questo sono di me stesso il nemico, il nemico, il grande amico che sono io. Ho lanciato un sasso nello stagno, ha fatto cerchi tutto in tondo. Alcuni si sono persi a largo, ma altri sono andati a fondo. Si è calmato tutto in un secondo, ho visto chiaro, finalmente. Fa paura, ma è importante. È una vita che provo a cambiare. Sbaglio e faccio finta di imparare. Ed intorno vedo tanta gente che con c'entra niente, tanto sai non è importante, tanto non mi frega niente, tanto non mi frega niente, tanto non mi frega, non è vero, quello vero, questo sono di me stesso il nemico, il nemico. Questo mio momento, me lo dico, me lo dico. Io sono di me stesso. Il nemico, il nemico. fumo.